Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2018-2019 su Radio Big World. Diamo una rapida occhiata a quello che è successo in settimana e soprattutto alla situazione classifiche nelle due conference, perché la deadline di mercato, cioè il giorno in cui finisce la possibilità di scambi tra le franchigie NBA, è piuttosto vicina ed immediatamente precedente il presunto appuntamento di metà stagione dell'All-Stars Game. E dico presunto perché quest'anno avviene parecchio in seguito ad una metà già ampiamente superata. Nel frattempo si incrociano squadre di prima fascia ed i risultati portano con sé inevitabili strascichi. Sto parlando del morale di Cleveland, sconfitta abbondantemente da Oklahoma City in casa, ma ne parleremo in seguito, e di Golden State, che è uscita sconfitta da Houston, complice una serata rivedibile per gli Splash Brothers, ma con la dimostrazione effettiva che questi Rockets, seppur con un Harden ancora non al 100%, possono tranquillamente giocarsela con la miglior squadra del mondo in una serie eventuale. Ma dicevamo, la deadline di mercato. Ci sono parecchi giocatori che rischiano di accasarsi lontano dalla loro squadra attuale, spingendo la stessa a cederli prima di perderli come free agent in estate. Ce ne sono altri che potrebbero essere scambiati per inserire all'interno della trade contratti onerosi e liberare così spazio salariale sempre per il mercato estivo. Sarebbe il caso di Julius Randle, che sta giocando una buona stagione in quel di Los Angeles sponda Lakers, ma che potrebbe partire accompagnato da Lowell Deng, la vera zavorra contrattuale che nessuno si prenderebbe mai da sola. L'idea conosciuta è quella che i Lakers firmino in estate uno tra LeBron James, Paul George o DeMarcus Cousins, anzi anche tutti e tre volendo, pur dovendo in quel caso liberarsi di qualche altro pezzo tecnicamente pregiato tipo Brandon Ingram o Jordan Clarkson. DeMarcus Cousins, che nell'ultima notte utile prima della nostra registrazione ha fornito una prestazione pazzesca da 44 punti, 24 rimbalzi e 10 stoppate nella vittoria dei Pelicans contro i Bulls, per la verità potrebbe arrivare anche piuttosto rapidamente, perché il giocatore è uno di quelli che in estate avrà il contratto in scadenza e i Pelicans potrebbero decidere di monetizzare su di lui un minimo anziché perderlo a zero. Anche perché si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero il monociglio più amato di America, cioè Anthony Davis, lontano da New Orleans anche lui abbastanza rapidamente, e queste voci vedono in pole position proprio i Boston Celtics, leader attuali della Eastern Conference, che con Davis completerebbero definitivamente un roster potenzialmente da titolo fin da subito. Chiaramente il sacrificio riguarderebbe Al Horford ed uno tra Jalen Brown e Jason Tatum, ed io a questo punto mi terrei chiaramente il rookie, ma inserire comunque da subito Davis a fianco di Kyrie Irving in un sistema come quello dei Celtics sarebbe già devastante. In più, se li pensate aggiunti anche a Gordon Hayward l'anno prossimo, sarebbe veramente tanta roba, ammesso che Hayward torni come ci aspettiamo che faccia, e comunque sappiamo anche che ha già ripreso a tirare sul campo, quindi le aspettative positive ci sono. Comunque, le Twin Towers dei Pelicans potrebbero scoppiarsi piuttosto a breve, tra l'altro in concomitanza con la duplice elezione di entrambe tra i partenti della prossima All-Stars Game nelle fila della Western Conference. E mi viene in mente, giusto in diretta, se ad esempio Davis si accasasse a Boston con la deadline comunque prima della partita delle stelle, sarebbe giusto averlo visto tra gli starters selezionandolo ad Ovest? Appare una domanda forse inutile, considerando che dal regolamento quest'anno non ci sarà né Est né Ovest rappresentato, ma solo le squadre scelte dai due capitani. In realtà però, almeno a livello di voto del pubblico, gli obblighi di selezione per categoria dividevano i giocatori nei due consueti insiemi geografici. Comunque, l'occasione era ottima per toccare l'argomento, quindi, per la cronaca, gli starters della prossima All-Stars Game saranno Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Joel Embiid, Kevin Durant, DeMarcus Cousins, Anthony Davis e James Harden. Inoltre i due capitani, cioè i due più votati per conference, Stephen Curry e LeBron James, che avranno il compito di mescolare la squadra facendo il loro personalissimo draft. Chissà cosa ne verrà fuori. Tornando alle voci di mercato invece, Charlotte sembra aver messo proprio sul mercato un pezzo pregiatissimo come Kemba Walker, che si dice non l'abbia preso esattamente bene, ma non potrebbe trarre a mio avviso visibilità e giovamento nel giocare per un mercato più importante o in una squadra vincente. Nessuno tende a considerarlo tra i top player della Lega, ma statisticamente ci starebbe dentro e non di poco. Si dice che New York sia profondamente interessata e farebbe pure bene a pensarlo in coppia con Porzingis ed affiancato al buon Tim Hardaway Jr. Inoltre nella faccenda potrebbero rientrarci anche Enes Kanter e Nili Kina, magari con l'arrivo insieme a Kemba Walker anche di Nicolas Batum. E sapete chi altro appare interessato al buon Kemba in questo momento? Ovviamente i Cleveland Cavaliers, che quando si parla di mercato appaiono più o meno dentro ad ogni tipo di questione apparentemente interessante. Per LeBron e compagni infatti la crisi è ufficialmente nera, i risultati non arrivano e a livello di gioco ci sono notevoli difficoltà difensive evidenti. 148 punti presi in casa contro Oklahoma City parlano da soli. Il roster è tendenzialmente al completo perché è rientrato pure Derrick Rose, ma la squadra non solo fatica a trovare amalgama, ma sembra spezzettarsi ogni giorno di più nello spogliatoio. Uno spogliatoio che potrebbe vedere anche cambiare il condottiero sulla panchina, perché in questa situazione le voci di un esonero di Tyronn Lue sono piuttosto realistiche ed esistenti. Per completare questo pessimo disegno, LeBron James rilascia dichiarazioni ogni giorno più deluse ed incazzate dal precedente, ultimamente dicendo ai media che secondo lui, se i playoff iniziassero oggi, Cleveland verrebbe spazzata via al primo turno da un chiunque qualsiasi. Il punto è creare una situazione che permetta proprio a LeBron James di restare, anziché scegliere di cambiare squadra la prossima estate come teorizzato dai più, offrendogli ovviamente un motivo per rimanere, ma indispensabilmente dopo aver conquistato quantomeno la finale anche quest'anno, cosa tra l'altro improbabilissima al momento a veder giocare i Cleveland Cavaliers nelle ultime settimane. E quindi, per Kemba si dice che Cleveland abbia pensato di mettere sul piatto addirittura un Isaiah Thomas arrivato da poco, che ha esordito da ancora meno, ma che evidentemente è piaciuto molto poco per i limiti fisici difensivi inevitabilmente emersi. Oltre a lui servirebbe inserire nell'offerta anche quella famosa prima scelta del draft 21, che era dei Brooklyn Nets, acquistata da Cleveland nello scambio di Kyrie Irving ai Boston Celtics. Si tratta della vera garanzia per il futuro dei Cavs in caso dovessero ricostruire, della quale tendenzialmente vorrebbero non liberarsi, ma che difficilmente riusciranno a trattenere se volessero davvero entrare di gamba tesa sul mercato di metà stagione. Anche perché le pedine di scambio sono poche e se giocatori come Iman Shumpert o Channing Frye hanno appetibilità zero, sono comunque utili da inserire in qualsiasi trade potenziale per alleggerirsi il totale salariale. Di buoni giocatori da offrire, oltre a Thomas, c'è solamente Tristan Thompson a mio avviso, che sta comunque giocando una stagione pessima, partendo comunque dal fatto che giustamente Kevin Love apparirebbe al momento intoccabile, apparirebbe, ma ci torneremo tra pochissimo. Ai Cleveland Cavaliers servirebbe un rim protector capace di tirar giù una caterva di rimbalzi e non necessariamente di prendersi molti tiri. Per questo un DeMarcus Cousins ad esempio a mio avviso altererebbe presumibili equilibri, seppur comunque potrebbe non essere così male, soprattutto in chiave di raggiungimento della finale immediata. Per questo, secondo me, DeAndre Jordan appare l'oggetto del desiderio più realistico da raggiungere, essendo prossimo alla fine del contratto con i Clippers. Insieme a lui, quella che un tempo era considerata la seconda squadra di Los Angeles, e da breve potrebbe tornare ad esserlo, potrebbe pensar di cedere ai Cavs anche Lou Williams, giramondo e pedina di scambio se ce n'è una, indiscutibilmente, al momento, il miglior sesto uomo della Lega. Chiaramente i Clippers, per spedire questa coppia a casa James, potrebbero accettare di accollarsi Shumpert e Fry, Tristan Thompson, forse chiedendo anche J.R. Smith, ma soprattutto la famosa prima scelta dei Nets. Quella deve cambiare di mano ulteriore per forza se si pensa di muovere questo tipo di giocatori. Infine, piace molto a Cleveland anche un giocatore finito nel tritacarne di Sacramento, cioè George Hill. Onestamente non mi sembrerebbe giocatore necessario, ma potrebbe diventarlo magari se scambiato ad esempio con Derrick Rose, o comunque se Sacramento decisse di venderlo per uno tra J.R. Smith o lo stesso Imam Shumpert già citato. Quindi la prospettiva è di vedere una Cleveland profondamente mutata nella struttura e nei giocatori a una manciata di settimane dai playoffs. La domanda che mi faccio è: gli farà bene? Non sarebbe meglio insistere sulle scelte operate in estate, cambiare magari allenatore e puntare a cementificare questo gruppo, magari con una sola ed unica alternanza a livello di pedine, tipo in effetti l'arrivo di DeAndre Jordan per Tristan Thompson? E se il problema fosse davvero il presunto manico piuttosto che un roster comunque vecchio che ha scomparso scomporsi nuovamente porterebbe la perdita ulteriore di una bussola che sembra già andata, almeno in questo momento della stagione. Sicuramente cosa da mutare immediatamente per Cleveland è l'atteggiamento difensivo, anche e soprattutto in fase mentale, visto che spesso sembrano proprio mancare le gambe nel seguire il diretto difensore sul primo passo di penetrazione, e di conseguenza il problema appare tendenzialmente di voglia, considerando che gli aiuti tardano ulteriormente ad arrivare. In tutto questo non è scagionabile neanche LeBron James, la cui efficienza difensiva stagionale è pari a quella che dovrebbe avere un top player del suo livello, tremendamente però privato dalle motivazioni più elementari, cosa che non dovrebbe avere. Oltretutto, quello che appare è che a causa dei mismatch difensivi, a svantaggio sempre scontato per quanto riguarda Isaiah Thomas, lo scoramento difensivo sia cosa di totale attualità quanto la preoccupazione di dover osservare quello che succede intorno per ognuno dei quattro in campo con Isaiah, con poca sostanziale voglia di applicarsi per coprire le deficienze fisiche del piccoletto. Infine, che lo spogliatoio sia spaccato in due fazioni è altrettanto dato di fatto, ed è emerso anche a livello di notizia una volta resa pubblica la vicenda per la quale parte dei giocatori hanno richiesto spiegazioni con veemenza alla dirigenza ed a Coach Liu rispetto all'abbandono di Kevin Love dalla sfida con Oklahoma City e la sua mancanza per l'allenamento seguente, causa una non precisata malattia. Si dice che il confronto sia stato piuttosto duro e che Love stesso abbia spiegato la genesi del suo evidente problema fisico, anche se gli indici sono stati puntati su diversi appartenenti al roster, secondo due fazioni determinate, come già detto. Una di queste, quella a cui evidentemente appartiene LeBron James, pare stia pubblicamente dalla parte di Tyronn Lue. In ogni caso, nelle prossime ore, forse anche prima e magari prima che ascoltiate questa puntata, qualcosa cambierà, e se gli equilibri sono rotti, anche Love potrebbe diventare pedina di scambio eventuale. Al momento che stiamo registrando, è martedì pomeriggio questa settimana, Cleveland si trova con solo mezza partita di vantaggio dai Miami Heat ad est, il che significa che rischia di finir quarta momentanea nella Eastern Conference, con la quinta Washington non tanto distante in caso di prossime ulteriori sconfitte. Tra l'ultima e la penultima posizione della top 8 naviga Milwaukee, che ha appena esonerato l'head coach Jason Kidd. L'efficienza difensiva, o meglio le scelte organizzative a riguardo, sembrano essere alla base della rottura di un matrimonio che in ogni caso soffriva già da tempo dell'ego dell'ex giocatore di Dallas, Phoenix e New Jersey, troppo protagonista ed accentratore. In particolare la sua idea di aggredire l'uomo con la palla, favorendo rotazione a coprire eventuali buchi sulla prima penetrazione subita, per quanto necessitasse di atleti di primo ordine che effettivamente Milwaukee ha a disposizione, non sembra aver funzionato al meglio, con la società che si aspettava ben altri risultati dopo l'innesto a stagione in corso di Eric Bledsoe. A metà febbraio rientrerà anche Jabari Parker, ed effettivamente il valore della squadra sulla carta sarà indiscutibile se si considera sia l'immensità di Giannis Antetokounmpo, che tra l'altro si dice molto contrariato dalla partenza di Kidd, sia il valore del contorno che oltre a Bledsoe lo vede sostenuto da Malcolm Brogdon, Middleton e Snell. Anche rispetto all'importanza di Parker nel roster, si dice ci fossero divergenze di vedute tra Kidd e la società, e quest'ultima si è congedata da Giasone ringraziandolo ma dichiarando di voler rinfrescare un po' la situazione anche in vista di un'edizione dei playoffs per la quale sarebbe preferibile mantenere la crescita progressiva a livello dei risultati, superando magari un turno. Ma prima di tutto, comunque, bisogna arrivarci e qualificarci in postseason. Anche perché i Bucks se la giocano con una Philadelphia trascinata questa settimana da un super Joel Embiid, rientrata tra le prime 8 a scapito di una Detroit in caduta settimanale. Ma come sappiamo comunque ad est ci sono almeno 6 squadre, io ci metto anche Washington Wizards, a contendersi 4 posti, quindi ci sarà molto da vedere nel proseguo della stagione. Ad ovest invece Golden State sempre in testa davanti a Houston, seppur sconfitti nello scontro diretto settimanale come già detto. Timberwolves saldamente terzi, se non per gli Spurs che sono attaccati dietro, con i quali probabilmente si giocheranno il quarto posto o il terzo eventuale. Dietro invece non troppa bagarre, se non per i Clippers che si trovano appena noni e che avrebbero i numeri per lottare per riuscire ad entrare nella griglia playoffs. Si tratta di una potenziale teoria però, perché se mai si attuasse l'autentico fuggi-fuggi di mercato di cui si continua a parlare incessantemente, getterebbero la spugna lasciando la post-season alla Denver di Nikola Jokic. Tra questa registrazione e la pubblicazione ufficiale di NBA Week in uno di qualsiasi tre canali di diffusione ci saranno novità riguardanti i roster dell'All-Stars Game ed il draft ad opera dei due capitani già detti che formeranno le due squadre. Ne parleremo a ridosso della partita, tanto ancora c'è tempo per arrivare preparati a quell'evento di metà stagione che oramai tanto di metà stagione non è più, carico di aspettative solitamente mai mantenute, che prova quest'anno a rinnovarsi modificando la struttura della gara, chissà se riuscirà a rinnovarsi veramente. Staremo a vedere. Rispetto invece al nostro podcast, anche questa puntata giunge alla conclusione. L'occasione è al solito perfetta sia per ringraziarvi che per ricordarvi che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week, dove abbiamo iniziato a pubblicare anche note di approfondimento testuale, anche e soprattutto su storie del passato della Lega. Per ascoltarci comunque gli appuntamenti settimanali restano i seguenti, anche per il 2018 ovviamente. Tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie ancora per l'ascolto, ci risentiamo la prossima settimana. It's over. It's over. It's over.